Sura 86esima, l'astro notturno, Meccana numero 36, di 17 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Per il cielo e per l'astro notturno. Abbiamo tradotto con astro notturno il termine arabo al-tariq, che implica il concetto di venire di notte inaspettatamente. E chi mai ti dirà cos'è l'astro notturno? È la fulgida stella. Non c'è anima alcuna che non abbia su di sé un angelo guardiano. Consideri dunque l'uomo da che cosa fu creato. Da un liquido eiaculato. Che esce di tra i lombi e le costole. Allah è certo capace di ricondurlo nel giorno in cui i segreti saranno svelati. E l'uomo non avrà più né forza né ausilio. Per il cielo che ritorna incessantemente. E per la terra quando si fende. In verità, questa è parola decisiva. Per nulla frivola. In vero tramano insidie. E io tesso la mia strategia. Concedi una dilazione ai miscredenti, da loro un po' di tempo.